Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. No grazie, De Bortoli rifiuta la presidenza della RAI e resta al sole 24 ore. Il nuovo candidato ce lo dica la sinistra, dice Berlusconi. Si annuncia un'altra giornata nera per le borse. Il premier, italiani un popolo di risparmiatori, ci aiuterà contro la crisi. Rifiuti pericolosi bruciati come immondizia comune, i sigilli ai termovalorizzatori di Colleferro e 25 sotto inchiesta a Roma. Roma multietnica saprà coniugare integrazione e legalità, il Papa così oggi in visita in Campidoglio. Tensione all'Università di Torino, tafferugli tra polizia e giovani dei centri sociali. Vandali a Firenze, senza un dito una statua della loggia dei Lanzi. GR Extra Large, buongiorno da Alessio Maurizi. Buongiorno da Anna Migliorati. Molti i temi politici in primo piano quest'oggi, a cominciare dal rinnovo dei vertici della RAI con il passo indietro del direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli. Ne parleremo più avanti. Prima parliamo della vicenda che riguarda un termovalorizzatore che era un termovalorizzatore definito modello, costretto però a bruciare rifiuti tossici in un'area densamente popolata. Stiamo parlando del centro Italia, del Lazio. Il termovalorizzatore, per essere precisi, è quello di Colleferro, al cui interno per anni è stata portata avanti una truffa ambientale smascherata questa mattina dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma. L'indagine è ancora in corso, ma per ora ci sono già 13 arrestati. Un anno di appostamenti, intercettazioni, un anno di storie raccolte nell'ombra per arrivare a dimostrare che nei due termovalorizzatori di Colleferro veniva smaltito ogni tipo di rifiuto, soprattutto rifiuti tossici, violando tutte le norme. Alla fine il lavoro del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri ha portato all'arresto di 13 persone, con le accuse di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, accesso abusivo a sistemi informatici, violazione dei valori limite delle emissioni in atmosfera e prescrizione delle autorizzazioni e favoreggiamento personale. In tutto 25 indagati. È la storia che sconcerta per il modo sciatto e sfrontato con cui veniva compiuta una truffa dannosissima per l'uomo e l'ambiente. I carabinieri hanno visto file di camion piene di pneumatici scaricati e bruciati. Ci hanno raccontato di gente che firmava documenti fasulli, di chimici che approvavano la combustione di materiale tossico come fosse regolare. Una storia che ha anche dei buoni, degli operai che lavoravano all'interno dei termovalorizzatori e che hanno tentato di denunciare quanto stava avvenendo. Operai che sono stati minacciati e licenziati. Una storia con un finale positivo, ma con la grave incertezza che in tutto questo tempo siano stati diffusi fumi pericolosi in un ambiente densamente popolato. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E come si vede, nonostante la risoluzione del caso napoletano, i rifiuti continuano a essere al centro dei traffici e di interessi illeciti. I carabinieri, per smascherare questa, per portare a termine questa operazione, hanno lavorato per oltre un anno. Cristina Carpinelli ha sentito il capitano Pietro Raiola Pescarini, comandante del Nucleo Operativo Ecologico che ha condotto questa operazione. Sono stati posti sotto sequestro i due termovalorizzatori, perché anziché bruciare CDR, combustibile da rifiuto, così come previsto, bruciavano rifiuti di ogni genere, provenienti anche dalla campagna e anche rifiuti speciali pericolosi. Ecco, queste persone si facevano rilasciare dei finti documenti, la truffa è stata, diciamo, ben articolata, no? Certo, perché si facevano rilasciare certificati falsi per far sì che sembrasse effettivamente combustibile da rifiuto. E poi, quando andava in allarme il sistema, falsificavano anche l'impianto informatico da Grosseto, da un'azienda di Grosseto informatica, e infatti tra i 13 arrestati sono anche i responsabili dell'azienda di Grosseto, il laboratorio analisi, i responsabili dei due impianti. C'erano anche delle persone che, lavorando all'interno, avevano tentato in qualche modo di far uscire la cosa, ma erano stati messi a tacere? Sì, un operaio ha collaborato con noi e per questo è stato sospeso dal servizio momentaneamente. Adesso cosa succede? Cioè, quali sono i rischi che si corrono? Nel senso che in questi termovalorizzatori sono stati bruciati dei rifiuti tossici. Cosa state facendo voi a questo punto? Niente, adesso da oggi l'ARPA monitorerà tutti i campioni di rifiuti in entrata nel termovalorizzatore e noi vigileremo a che questo avvenga. Ecco, e invece c'è stato un giro di soldi piuttosto ingente, perché quando si parla di rifiuti si parla poi di soldi, no? Sì, giro di soldi ingente, perché non solo perché CDR veniva venduto mentre così non era CDR, ma anche perché bruciando CDR, quindi fonte rinnovabile, lei ha diritto a essere rimborsata dal CIP 6, ovvero sia rimborso per chi produce energia da fonti rinnovabili. Quindi vendevano corrente, non potendola vendere perché non la producevano dal CDR, e avevano rimborsi dalla Comunità Europea del CIP 6, non avendone titolo. Quindi decine di milioni di euro. Senta, voi per un anno avete lavorato nell'ombra, no? Cosa avete fatto? Appostamenti, osservazioni, controllo, praticamente intercettazioni ambientali e telefoniche. E cosa avete visto? Cioè, camion che non erano di CDR entravano dentro dalla campagna, che al telefono parlavano di come fare sparire i rifiuti pericolosi, come bruciarli, eccetera. C'è di mezzo la mafia? Non c'è, assolutamente no. E a non dare tregua sono anche i numeri della crisi economica. Un altro allarme è arrivato questa mattina dall'Europa. Una recessione senza precedenti che potrebbe causare altri 6 milioni di disoccupati entro il 2010. Sono le considerazioni del progetto di documento del Comitato per l'Occupazione e per la Protezione Sociale del Consiglio Europeo di Primavera. Nelle ultime stime europee si era parlato della perdita di 3 milioni e mezzo di posti di lavoro nel 2009. E nessuna tregua anche dai mercati finanziari. Deborah Rosciani. Sì, queste notizie sicuramente alla borsa non fanno bene, ma già stamattina l'Europa si era svegliata di pessimo umore, risentendo ancora del dato sulla disoccupazione dagli Stati Uniti che era arrivato venerdì scorso. Il tasso si è portato in febbraio all'8,1% e questo naturalmente ha comportato i nuovi scivoloni pesanti dei listini internazionali. Oggi l'Europa risente anche del nuovo calo pesantissimo di tutti i titoli del settore bancario, un copione che continuiamo a raccontare ogni giorno si ripete. Le cattive notizie arrivano proprio da Londra, dove il tema su cui gli operatori si concentrano è quello della nazionalizzazione dopo l'annuncio sabato scorso dell'accordo fra Lloyd Banking Group e il governo britannico, a cui passerà la maggioranza assoluta dell'istituto inglese. Ecco il quadro in Europa: Parigi -1,78, Francoforte -1,24, Londra -1,45, Milano -3,36%, ancora una volta la peggior piazza del Europa, ancora una volta a causa del ribasso della gran parte dei titoli del comparto bancario. Banco Popolare -8, UbiBanca -8, Mediobanca -6,8% e via dicendo. Insomma, il quadro anche questa mattina è questo, è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Questi i numeri della crisi, queste le borse, ma c'è anche chi invece in questa fase decide di investire. Un nuovo centro per la ricerca di Cisco System in provincia di Milano, inaugurato quest'oggi, alla presenza di molti rappresentanti del governo, anche perché si è parlato di innovazione a tutto tondo, scuola, pubblica amministrazione, imprese e altro. Stefano Totolo, ci colleghiamo, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Ha partecipato, come avete detto, il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, il Ministro dell'Interno Roberto Maroni, il Ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini. Tutti e tre si sono augurati di poter presto digitalizzare gran parte della pubblica amministrazione. Sicuramente hanno fatto l'esempio del centro inaugurato oggi, del centro Cisco Business Collaboration, come esempio appunto di così diciamo in contrasto con la crisi economica. Ma della crisi economica è tornato a parlare anche il Presidente del Consiglio, che ha ammesso la gravità e la pesantezza della situazione economica, ma ha attribuito ancora una volta una grande responsabilità ai media, ai giornali e alle televisioni che, ha detto il Premier, cercano il titolo ad effetto. Noi dobbiamo avere fiducia, ha continuato Berlusconi, i prezzi sono contenuti e il potere d'acquisto è aumentato. Poi, per tranquillizzare i cittadini e i risparmiatori, Berlusconi ha fatto un paragone con la situazione economica negli Stati Uniti, che sentiamo. Abbiamo la fortuna tanto di essere un popolo di risparmiatori, e pensate alla differenza di un americano che perde il posto di lavoro e di un italiano. L'americano normalmente, visto che consuma verso il futuro, non ha un conto in banca positivo, in attivo. Non ha l'assistenza sanitaria, non ha la cassa di integrazione, ha un mutuo il cui importo di rata è aumentato. Noi in Italia abbiamo le famiglie italiane che mediamente per l'87% sono proprietarie della propria abitazione. I mutui per quelle famiglie che hanno acceso un mutuo sono stati fermati a quella cifra del 4% al mese, che non può essere superata, con perciò un prolungamento del tempo di pagamento per le banche. Normalmente, ripeto, le nostre famiglie hanno comunque un conto in banca in attivo, hanno la più completa assistenza sanitaria e hanno la cassa di integrazione, che per come è fatta consente al governo di intervenire praticamente in tutte le direzioni. Stefano, si è parlato anche della vicenda Rai? Sì, si è parlato della vicenda Rai. Il Presidente del Consiglio, prima di lasciare il centro Sisco, ha commentato il rifiuto del direttore del Sole 24 Ore Ferruccio De Bortoli, ha detto: mi dispiace, adesso il nome lo devono dare quelli della sinistra. Prima di chiudere, Berlusconi è tornato anche a parlare del piano casa e ha detto: è una proposta che dobbiamo approfondire, la nostra è un'indicazione quando... è un'indicazione quadro che diamo alle regioni, sono le regioni che devono fare la legge. Per il momento è tutto. Grazie Stefano, e naturalmente di questo parleremo più avanti, sia del piano casa e delle misure anticrisi, perché oggi la proposta del PD arriva in Parlamento, quella sull'assegno di disoccupazione, ma soprattutto parleremo di quali spirali si aprono per la RAI dopo il passo indietro di De Bortoli. Adesso andiamo a Roma, andiamo in Campidoglio, dove c'è stata la visita di Papa Benedetto XVI, Paolo Cavadi. Sì, buongiorno. Si è conclusa da circa un'ora la visita di Benedetto XVI qui in Campidoglio, un evento molto atteso in città per il quale sono state disposte misure di sicurezza imponenti. È la terza volta nella storia che un Papa si reca in visita ufficiale sul colle del Campidoglio, dove ha sede il Comune di Roma. Prima di Ratzinger erano stati nel 66 Paolo VI e 11 anni fa Giovanni Paolo II. Dopo un breve incontro privato col sindaco e il saluto alle autorità nella sala dell'Arazzo, Benedetto XVI ha parlato di fronte al Consiglio Comunale riunito in seduta straordinaria. Al centro del suo discorso la città di Roma, metropoli multietnica e multireligiosa, difficilissima da gestire e amministrare. Ma sentiamo a questo proposito un passaggio del discorso di Benedetto XVI. Da parte della comunità cattolica non verrà mai meno un convinto apporto per trovare modalità sempre più adatte alla tutela dei diritti fondamentali della persona nel rispetto della legalità. Sono anch'io persuaso, come ella, signor Sindaco, ha affermato, che attingendo nuova linfa alle radici della sua storia, plasmata dal diritto antico e dalla fede cristiana, Roma saprà trovare la forza per esigere da tutti il rispetto delle regole della convivenza civile e respingere ogni forma di intolleranza e discriminazione. E sentivamo dunque dal pontefice l'appello per una Roma multietnica alla ricerca di convivenza dopo i recenti episodi di violenza. I due volti della vicenda sono da una parte le indagini sull'episodio della Caffarella e invece una Roma che cambia volto. Cominciamo allora con raccontarvi le novità di cronaca, perché oggi si decide sulla scarcerazione dei due romeni in carcere con l'accusa di violenza sessuale. Le previsioni parlano di almeno 24 ore, ma potrebbe conoscersi già questa sera la decisione del Tribunale del Riesame di Roma sull'istanza di scarcerazione presentata da Alexandru Stoica Loios e Carol Ratz, i due romeni accusati dello stupro della Caffarella. Al centro delle tesi difensive l'esito negativo della comparazione del DNA, ma per la procura i due devono restare in carcere. Ratz, il pugile, perché accusato di un altro stupro, quello di Primavalle, Loios, il biondino, perché potrebbe aver assistito alla violenza e poi coperto la fuga dei complici. Questa mattina la Procura di Roma ha depositato nuovi atti, intercettazioni ambientali di colloqui fra testimoni a favore di Ratz, il cui difensore chiede il ricovero in ospedale per problemi di salute. Anche se scarcerato per la Caffarella, tuttavia Ratz resterebbe in cella per l'ordine di custodia relativo alla violenza di Primavalle. E mentre gli agenti della squadra mobile di Roma sono in Romania sulle tracce del profilo genetico emerso dagli esami del DNA, vacilla l'alibi di un terzo romeno inizialmente coinvolto nelle indagini e poi rilasciato, ora è irreperibile. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. Dicevi, Anna, di una Roma che cambia volto. È per esempio la Roma vicino alla stazione Tiburtina, dove è nato il primo negozio della capitale dedicato alla comunità romena. Siamo andati a curiosare. Curiosi di provare il goulash o di assaggiare formaggi e salumi rumeni? Il posto che fa al caso vostro è aperto a Roma, a due passi dalla stazione Tiburtina. Si chiama La Strada ed è uno dei primi supermercati rumeni della capitale. Ieri l'inaugurazione, come ci racconta Mirella, una delle dipendenti. Ah sì, c'era molta gente, rumena anche italiana. Poi sono venute due cantanti famosi da Romania. Abbiamo preparato i piatti tipici rumeni, che sono piaciuti a tutti. Per esempio? Allora, tutti i tipi di salami, formaggi, abbiamo fatto i tramezzini, no? Con tutti i salami rumeni. Agli italiani gli sono piaciuti tanto. Nel bancone invitante dei salumi si trova il pecorino sardo accanto alla pastrama di impulpa de pui, vale a dire coscia di pollo affumicata, il prosciutto cotto e i carnazzi de casa, salsicce affumicate. I clienti sono rumeni ma anche italiani. Sono da qui innanzitutto perché volevo congratularmi con loro e sono riusciti ad aprire un'attività in così breve tempo, e poi anche la comodità del fatto che io abito vicino. Oggi cosa hai comprato qui? Prodotti rumeni. Tipo? Quello che mi mancavano. Il sugo che è di mirtilli, che è diverso di questo, e poi il salame. Mi ha fatto piacere che pensavo è un po' meno caro. Ah, ecco, meno caro. Meno caro, che sono prodotti del nostro paese, dell'origine, che diciamo, ci abbiamo nostalgie. Bella notizia per noi, perché mangiamo qualsiasi di nostro preparati in Romania e sono buoni. Paola Nania, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. 13:20, le notizie di oggi. Il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, non ha accettato la presidenza della RAI. Ringrazio Letta e Franceschini, ha spiegato lo stesso De Bortoli. Dopo un'attenta riflessione ho deciso di restare dove sono, a fare solo il giornalista. Il nuovo candidato presidente deve esprimerlo la sinistra, ha detto oggi Berlusconi. Entro il 2010 altri 6 milioni di disoccupati, l'allarme dell'Unione Europea. Contro la crisi, italiani un popolo di risparmiatori, così rilancia il Premier. Normalmente, ripeto, le nostre famiglie hanno comunque un conto in banca in attivo, hanno la più completa assistenza sanitaria e hanno la cassa di integrazione, che per come è fatta consente al governo di intervenire praticamente in tutte le direzioni. Intanto questa mattina l'indice Nikkei della borsa di Tokyo è scivolato dell'1,2%, toccando il minimo in chiusura degli ultimi 26 anni sui timori per General Motors. Si annuncia un'altra giornata nera anche per l'Europa, con Milano che ora cede quasi il 4%. A Colleferro, in provincia di Roma, venivano smaltiti come rifiuti comuni materiali speciali e anche pericolosi. Parte del materiale arrivava di nascosto dalla Campania, quanto emerso da un'indagine dei carabinieri, 25 gli indagati. Il Papa è in visita a Roma, in Campidoglio. Talvolta ha detto nel suo discorso: l'integrazione è faticosa, ma la multietnica Roma saprà respingere ogni intolleranza. E oggi, lo ricordiamo, si attende la decisione sulla scarcerazione dei due romeni accusati dello stupro alla Caffarella. Scontri tra giovani dei centri sociali e sostenitori del fronte universitario all'Università di Torino. Lanciate uova e fumogeni contro la polizia, almeno un ragazzo fermato. Ha denunciato i suoi estorsori per racket e alla fine si è trovato a dover mettere in vendita un rene. Tra poco il racconto di un imprenditore palermitano. Vandali in piazza della Signoria Firenze, danneggiato il ritratto di Polissena nella loggia dei Lanzi. E come detto, riprendiamo la notizia. Ferruccio De Bortoli ha rinunciato alla carica di presidente della RAI, e questa la notizia che stamattina ha cambiato le carte sul tavolo della partita politica che riguarda il rinnovo dei vertici RAI. Ci colleghiamo con Andrea Viali. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno. Dunque, Ferruccio De Bortoli ringrazia ma dice no al suo nome come carica di presidente della RAI. Sul direttore del Sole 24 Ore era stato raggiunto un accordo fra il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Letta e il segretario del Partito Democratico Franceschini. A loro ha fatto riferimento De Bortoli nel comunicato con cui stamattina ha reso nota la sua decisione. Ringrazio Dario Franceschini e Gianni Letta per l'offerta di presiedere la RAI, azienda patrimonio del Paese, un incarico di grande prestigio per il quale mi ero reso disponibile. Dopo attenta riflessione ho però deciso di restare dove sono, a fare solo il giornalista, ha scritto De Bortoli. Letta e Franceschini si sono incontrati per una ventina di minuti stamattina nella sede del Partito Democratico e lì hanno preso atto della rinuncia di De Bortoli, una rinuncia che di fatto riapre la partita sui vertici della RAI. A quanto si è appreso, Letta e Franceschini avrebbero comunque deciso di individuare in tempi brevi un nuovo nome, questo per rispettare la scadenza di domani. Domani, lo ricordiamo, è prevista l'assemblea degli azionisti RAI che dovrebbe indicare sia l'ottavo componente del consiglio di amministrazione di Viale Mazzini sia il candidato presidente, che poi andranno nomi che andranno sottoposti al voto della commissione parlamentare di vigilanza. Per questo in giornata Letta e Franceschini molto probabilmente torneranno a sentirsi e forse anche a vedersi. Staremo a vedere. A voi la linea. e grazie ad Andrea Aviali. Queste le ultime novità su una vicenda ancora del tutto aperta. La cronaca ci porta invece a Torino, una notizia di questa mattina: scontri tra giovani dei centri sociali, sostenitori del FUAN, del fronte universitario all'Università di Torino. Sono state lanciate uova e fumogeni contro la polizia, intonati slogan contro il fronte universitario, fuori i fascisti dall'università. Questo il tenore degli slogan questa mattina all'Università di Torino. Un grosso petardo esploso nell'atrio di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche, mentre gli agenti hanno deciso una carica per respingere il gruppo. Almeno un ragazzo è stato portato via in manette, ma notizia di questi minuti, altri studenti sembrano essere stati fermati. E vedremo se ci saranno altre tensioni nel corso della giornata a Torino. C'è un'altra notizia però politica, ed è la nascita ufficiale del Popolo della Libertà. Ci sarà il congresso entro fine mese e continua il nostro percorso tra le diverse voci del nuovo partito. Oggi Paolo Piacenza ha sentito il presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, che è di Forza Italia. Naturalmente la sua intervista parte, come anche per gli altri esponenti, dai temi che dovranno caratterizzare il nuovo partito. I valori di fondo sono unificanti per noi, il valore della persona e quindi la sua libertà, la visione di uno Stato leggero fondato sulla sussidiarietà che esalta il ruolo della società civile, delle persone, il ruolo della famiglia come cellula fondamentale della società stessa, e poi una collocazione internazionale chiara a fianco dei nostri alleati di sempre, dentro un'Europa che però deve sburocratizzarsi sempre più. Io dico che da questo punto di vista l'esperienza di governo comune che abbiamo dal 94 ad oggi ci rende molto forti. Modello di partito leggero, modello di partito di territorio, qual è il suo orientamento? Guardi, è necessario l'uno e l'altro, leggero, cioè sburocratizzato, la gente, gli elettori, gli stessi iscritti non vogliono sentire più di pratiche partitocratiche, quindi deve essere un partito capace di decidere, però un partito aperto, partecipato, democratico. Voglio dire, noi andiamo ad eleggere il nostro leader, sappiamo già chi è, ma poi dobbiamo e vogliamo confermare o rinnovare la nostra classe dirigente attraverso voti in cui ogni testa esprime il proprio parere e si cercano maggioranze attorno a nomi di persone, attorno a programmi da realizzare. Ecco, ma non c'è il rischio che l'unanimismo intorno al leader comprima la creazione di un vero processo di confronto all'interno del partito? Ma guardi, intorno al leader c'è unanimità perché tutti si riconoscono nel leader. Voglio dire, Berlusconi ha vinto tutte le prove fondamentali, i passaggi fondamentali di questi 15 anni, è piaciuto agli elettori, è il consenso degli elettori che trascina con sé anche il consenso del partito. L'ultima domanda allora riguarda proprio il voto che dovrà sancire l'elezione del presidente, segreto o no? Ancora ieri Alemanno diceva: io sono convinto che al voto segreto si arriverà. Ma guardi, sono francamente questioni di lana caprina. Voglio dire, c'è qualcuno che pensi veramente che anche ove si andasse al voto segreto ci sarà una candidatura contrapposta a quella di Berlusconi? E così dunque Roberto Formigoni, al microfono del nostro Paolo Piacenza. Andiamo invece sui giornali stranieri. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. E lo facciamo perché si attende oggi dal presidente americano Barack Obama un'altra stoccata in qualche modo al suo predecessore. Sì, oggi è stata uno dei temi della campagna elettorale, quindi Obama ancora una volta conferma che tutto quello che aveva promesso sta cercando di mantenerlo. Questa promessa era quella sulla ricerca sulle cellule staminali, verrà tolto quel veto che era stato messo dal presidente Bush, che naturalmente lo faceva per ragioni strettamente collegate al suo credo religioso. Infatti la religione cattolica non solo è contraria a questo tipo di ricerca, il Vaticano lo ha anche ribadito di recente. Obama però toglierà questo veto, l'aveva promesso e lo farà, e è stato preannunciato ieri. Resta però, sottolinea il New York Times, una questione che è strettamente collegata, cioè al Congresso Obama lascerà poi il compito di decidere quanti dei soldi delle tasse, quindi soldi dei contribuenti, possono essere, se possono essere usati per questa ricerca, che per esempio potrebbe essere fatta con fondi privati. E però si tratterebbe di una cosa, forse un compromesso che potrebbe in qualche modo smorzare quell'ala conservatrice che ostacola dell'elettorato e anche dei parlamentari, che ostacola questo veto tolto da Obama. 13:34, le notizie di oggi extra large. Entro il 2010 altri 6 milioni di disoccupati, l'allarme dell'Unione Europea. Contro la crisi italiani, un popolo di risparmiatori, così rilancia il premier Berlusconi da Milano. Normalmente, ripeto, le nostre famiglie hanno comunque un conto in banca in attivo, hanno la più completa assistenza sanitaria e hanno la cassa di integrazione, che per come è fatta consente al governo di intervenire praticamente in tutte le direzioni. Intanto questa mattina l'indice Nikkei della Borsa di Tokyo è scivolato al minimo in chiusura degli ultimi 26 anni e si annuncia, lo avete appena sentito, un'altra giornata nera anche per Milano. Vertici Rai, tutto da rifare. Il direttore del Sole 24 Ore, De Bortoli, non ha accettato la presidenza della Rai. Ringrazio Letta e Franceschini, ma resto a fare il giornalista, ha detto De Bortoli. Il prossimo candidato lo esprima la sinistra, ha detto poco fa Berlusconi, e poi la risposta di Franceschini: ho molte idee in proposito. A Colleferro, in provincia di Roma, venivano smaltiti come rifiuti comuni materiali speciali e anche pericolosi. Parte di questi arrivava di nascosto dalla Campania, in quanto emerso da un'indagine dei carabinieri. 25 sotto inchiesta. Il Papa in visita a Roma in Campidoglio ha parlato di integrazione e legalità. Roma saprà trovare la forza per esigere da tutti il rispetto delle regole della convivenza civile e respingere ogni forma di intolleranza e discriminazione. E oggi lo ricordiamo, sempre a Roma si attende la decisione sulla scarcerazione per i due romeni accusati dello stupro alla Caffarella. Vandali in Piazza della Signoria a Firenze, danneggiata una statua nella loggia dei Lanzi. Crisi in Italia divide il piano casa proposto dal governo, ma anche la proposta del Partito Democratico di un assegno di disoccupazione a chi perde il lavoro. Una proposta che sarà discussa proprio oggi in Parlamento, e allora da qua ripartiamo con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Nel giorno del debutto del nuovo sistema di votazione elettronico per i deputati, con il riconoscimento delle impronte digitali, arriva nel primo pomeriggio in aula la mozione del Partito Democratico per l'istituzione di un assegno mensile di disoccupazione per una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Si preannuncia un delicato passaggio parlamentare con una netta divisione tra maggioranza ed opposizione. Il centrodestra, con lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi, ha già bollato l'ipotesi dell'assegno come licenza di licenziare. Dal Partito Democratico il segretario Franceschini ha rilanciato, avanzando un'altra proposta per il mondo del lavoro, una moratoria di un anno per i licenziamenti dei precari nella pubblica amministrazione. Altro capitolo, il piano casa, in arrivo venerdì nel Consiglio dei Ministri. Poco fa anche su questo tema è intervenuto Berlusconi, che ha spiegato: lo stiamo approfondendo, ma saranno le regioni ad attuarlo. Il piano casa, dice il capogruppo del PDL Bocchino, risponde alle esigenze delle famiglie italiane, può essere il volano per una veloce ripresa economica. Critico il centrosinistra, si cementificherà il paese dando il via libera all'abusivismo edilizio, spiega Realacci del PD, possibilista invece l'UDC di Casini. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. L'altra partita ovviamente che si gioca in queste ore, partita politica, è quella delle nomine Rai. Dopo il no di Ferruccio De Bortoli, il nome per la presidenza Rai lo faccia l'opposizione, ha detto Berlusconi proprio mentre stavamo aprendo GR24, e in questi minuti è arrivata la replica dal PD. Pensavo, dice Franceschini, che la legge imponesse la ricerca faticosa di un nome condiviso tra maggioranza e opposizione, richiedendo i due terzi della commissione di vigilanza Rai per eleggere il presidente della Rai. Se invece Berlusconi intende dire che accetterà qualsiasi nome dall'opposizione, ho molte idee in proposito. Così la presa di posizione del segretario del PD Franceschini. E torniamo invece all'economia. I paesi dell'est Europa sono a rischio Argentina, ha detto oggi il vice ministro per il commercio estero Adolfo Urso, secondo il quale il governo si sta però adoperando per limitare le conseguenze della crisi in quell'area, dove, ricordiamo, sono molte le imprese italiane che hanno investito negli ultimi anni. E allora sentiamo Urso, è presente oggi nella sede del Sole 24 Ore per un convegno sul Made in Italy. La crisi è drammatica, che colpisce soprattutto i paesi sui quali le nostre piccole e medie imprese si erano diretti negli ultimi anni. Parlo in modo specifico dell'Europa centrale orientale, se pensiamo alla Romania, ma anche all'Ucraina e a tutta questa Europa danubiana, che potrebbe diventare, ce lo auguriamo no e lavoriamo perché non accada, una nuova Argentina. I dati di stanotte dicono che nel 2009, nell'anno in corso, sarà una contrazione del prodotto interno lordo del mondo, come non accadeva dal 1945 con l'accrollo dei commerci mondiali, come accadde purtroppo dopo il 29. Proprio per questo noi faremo del nostro G8, della presidenza italiana del G8, il momento cruciale per rilanciare il negoziato del Doha Round, in modo da consentire al commissario europeo, che è impegnata in prima linea, la baronessa Ashton, e al direttore generale del WTO Pascal Lamy, di poter cercare la chiusura del round, già magari una ministeriale, poco prima dell'estate. E l'economia nasconde spesso anche storie. Una di queste ve le raccontiamo ora. Vendo un rene per assicurare un futuro alla mia famiglia. L'ultima disperata iniziativa di Bernardo Raimondi, vittima di usura a Palermo, che ha denunciato i suoi estorsori e che ora rovinato e abbandonato dalle istituzioni. Buongiorno, è qui con noi Bernardo Raimondi. Buongiorno a voi. Dunque, lei è anche un artigiano, uno dei più bravi, ci dicono, ceramisti di Palermo, specializzato tra l'altro in presepi artistici. Adesso però lei, per via di queste estorsioni, non sa più come andare avanti. Ci dice che è successo? Praticamente, a parte che ho 33 anni che faccio questa attività e non voglio vantarmi, però sono stato uno dei ceramisti premiati addirittura alla Biennale di Caltagirone 20 anni fa. Mi sono rivolto al lastrico, sono stato vittima dell'usura e anche dell'estorsione, sono stato costretto a vendere la casa, mi hanno rubato la macchina, un figlio pure invalido che purtroppo ha bisogno di cure necessarie, e mi sono ridotto a vendere quello che riesco a fare davanti alle chiese. Forse sono l'unico artigiano riguardo a questo settore vittima dell'usura che testimonia anche con la propria opera, cultura e legalità davanti alle chiese. Però fino ad oggi ho avuto solo parole, parole e parole, basta, niente fatti concreti, se non nella Caritas che mi ha pagato anche bollette e tuttora ne ho anche altre scadute. Quindi insomma, senza un aiuto non può andare avanti e può proseguire i processi che comunque ci sono. Sì, sì, esatto, perché veramente io, al contrario di come dicono i ministri o l'istituzione, la crisi, io non ho crisi, io il lavoro l'avrei. E che purtroppo, mancando la liquidità e il capitale nelle mani, è come se non avessi lavoro, ecco, la stessa cosa. Un sostegno l'ha trovato magari nelle associazioni di categoria che sappiamo si stanno un po' muovendo in Sicilia, l'iniziativa, sì, per esempio, però a livello psicologico e basta, cioè tutto il resto sono, per me sono tutte chiacchiere, ecco. Io vedo spesso convegni, dibattiti e cosa vale, però. Ma adesso lei, lei cosa, che farà? Ma guarda, io ho fatto questo orologio che è una provocazione, anche se avrei una proposta molto allietante lo farei, questo deve vendere un rene e cosa vale. Però non chiedo altro, guarda, a me basterebbero anche 10.000 euro per riattivare questa attività, quindi non è una cifra così esorbitante. Chiedo un aiuto, un appello, ecco, un aiuto a tutte quelle istituzioni, associazioni o anche gente per bene, insomma, che hanno la possibilità economica e cosa vale. Di darmi questo aiuto per dare e riavere per poter andare avanti con la sua attività. E l'appello l'abbiamo fatto. Grazie Bernardo Raimondi, ricordiamo la sua vicenda di usura in Sicilia, a Palermo in particolare. Adesso cambiamo decisamente registro. Sì, è tutt'altra storia, ma anche qui un modo un po' particolare per finanziarsi, per raccogliere fondi. Molti giovani l'hanno riscoperto grazie alla versione di Ho visto anche degli Zingari felici nell'ultimo album di Luca Carboni, ma Claudio Lolli ha dei fan fedelissimi, tant'è che il nuovo CD ora in registrazione è proprio finanziato dai suoi ammiratori che l'hanno acquistato ancor prima che esca in prevendita. 30 anni di canzoni politiche e di lotta, ma non solo. E così ora Claudio Lolli raccoglie in un album tutti i suoi brani d'amore. Il maestro bolognese è in studio per registrare Love Songs, un disco rivoluzionario come l'amore. In questi 30 anni è cambiato praticamente tutto, si è rovesciato tutto il mondo e anche il mio mondo, insomma tutti i valori che io avevo sono oggi derisi, negati, eccetera. Però ecco, forse proprio per quello il filo dell'amore è una cosa che è rimasta un po' salva, precariamente salva, però in qualche modo intoccabile. E ci sono lite di Dio stamattina nel cielo e ti stanno accendendo una bella luce. Lolli ha riarrangiato i brani tra jazz e sperimentazione con il suo storico chitarrista Paolo Capodacqua e il sassofonista Nicola Alesini. Sono una persona molto fortunata perché riesco evidentemente a comunicare amicizia a tanti amici. Tutti quelli con cui ho collaborato erano amici, erano entusiasti, lo facevano più per i soldi, che sono pochi, per affetto, per amore, per stima, e si sono divertiti molto. E insomma, in questi climi qui di solito nascono delle cose abbastanza interessanti. E al centro di tutto c'è la mia voce innamorata. Quello che mi resta dei tuoi giorni sono queste note tristi. I fan di Lolli intanto seguono in tempo reale la realizzazione del disco su storiedinote.com e su Facebook e acquistano il disco in prevendita per sostenerne la realizzazione. In tempi di crisi, insomma, gli amici, musicisti e fan si stringono attorno all'artista. Ma sì, a me aiuta molto, insomma, e mi sembra anche un segnale che ci sarebbe bisogno, insomma, di qualche cosa di un po' emotivamente significante, insomma, intellettualmente significante. Insomma, il vuoto è stanca, io penso che il vuoto faccia molto piacere all'inizio perché libera e rilassa, dopo un po' stanca veramente. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. 13:46 minuti, GR24 extra large. No grazie, De Bortoli rifiuta la presidenza della Rai, resta al Sole 24 Ore. Berlusconi, il prossimo nome lo dica la sinistra. Franceschini, decisione comune, ma noi abbiamo delle idee. Si annuncia un'altra giornata nera per le borse. Berlusconi, italiani un popolo di risparmiatori, ci aiuterà contro la crisi. Rifiuti pericolosi bruciati come immondizia comune, i sigilli ai termovalorizzatori di Colleferro e 25 sotto inchiesta nella capitale. Roma multietnica saprà coniugare integrazione e legalità, il Papa così oggi in visita in Campidoglio. E come dicevamo poco fa, il benessere fa vivere più a lungo. Perciò negli ultimi 35 anni il tasso di longevità è aumentato, questo si sapeva già. In particolare però nel nord-est del nostro paese gli stili di vita sono determinanti, lo dice uno studio dell'Istat rielaborato dal Sole 24 Ore, oggi in edicola. E allora Adriana Fracchi ha sentito per noi il ricercatore dell'Istat, Marco Marsilli, che ha raccolto i dati. Complessivamente, pur tra le diverse realtà territoriali, è in corso un processo di convergenza significativo per quello che attiene alla durata media della vita. Se guardiamo rispetto, al 2001, possiamo dire che i guadagni sono stati abbastanza, omogenei tra le varie realtà territoriali. In Italia, i guadagni sono stati di 1,8 anni per gli uomini, di 1,3 anni per le donne. Si vive in certe zone del nord, è vero, nelle aree del nord-est si vive molto più che in altre realtà territoriali, ma questo sempre è stato così, lo era 30 anni fa, lo era 20 anni fa, probabilmente lo sarà anche in futuro, per cui se prendiamo Trentino Alto Adige, le Marche, il Veneto, ecco, la Toscana e via scende. La Lombardia, che aveva conseguito molti guadagni, oggi si trova per gli uomini appena un gradino sopra la media nazionale, quindi ancora molto da guadagnare, è un gradino sopra la media nazionale, è vero che ha conseguito un grosso guadagno negli ultimi 30 anni, ma ancora molto cammino da fare. Quali sono i fattori che comunque determinano questa maggiore aspettativa di vita? Ce ne possono elencare diversi. Un fattore strategico fondamentale che si può documentare è quello degli stili di vita, cioè il fatto che a livello soggettivo un individuo abbia determinati comportamenti nei confronti della propria salute, per esempio i fattori di rischio legati al fumo o legati all'alcol o al fatto di avere una vita sedentaria e via dicendo. Gli stili di vita sono una chiave fondamentale. E allora vi lanciamo una provocazione, ma in realtà non siamo solo noi a farla, prendetela magari oggi con un po' più di calma. Non ci prendete per pazzi, no, perché oggi è la terza giornata della lentezza. Anche in molte città italiane, come in diversi paesi del mondo, iniziative per rallentare il ritmo quotidiano. E allora rallentiamo anche in questo momento. Iniziative realizzate in collaborazione con istituzioni pubbliche e musei. Anna Marino ha raggiunto in Giappone il presidente dell'associazione Vivere con Lentezza, che ha promosso questo evento. Siamo a Tokyo Station, una delle stazioni, non la più trafficata, però sicuramente quella in cui la gente corre più forte, dove faremo una performance in cui cercheremo di dare la multa alle persone che camminano troppo velocemente. Assieme a noi però ci sarà Alessandra Maestri, che camminerà accompagnata da un violinista in mezzo alla folla. E in Italia? In Italia invece, come al solito, appuntamento a San Babila per chi è di Milano, con i due vigili Renato e Riccardo, che anche lì daranno le multe, poi ci sarà lo psicologo Luciano che scambierà i sogni e Giorgio Reali che farà giocare la gente con i giochi dimenticati assieme a Pasqualino. Poi invece iniziative a Roma di lettura al Circolo Internazionale delle Donne, iniziative a Follonica di lettura di fiabe, ma mi piace parlare soprattutto dell'iniziativa di Barcellona in cui faranno visitare un museo, il Museo Piramidon, con le ciabatte. Perché questa iniziativa? Ma l'iniziativa perché, ragazzi, qua il mondo va sempre più forte, tutti corrono come matti, siccome fermare il mondo non si può, allora abbiamo deciso di cominciare a rallentare noi, chissà mai che aumentando di numero prima o poi riusciremo anche un po' a fermare questo mondo che sta raggiungendo delle velocità folli. Quante adesioni avete avuto? Le adesioni sono incredibili, noi quando siamo partiti per il Giappone ne avevamo già più di 50, adesso siamo attorno a 100 adesioni, però ci sono dalle adesioni, diciamo, partecipazione di gruppo, alle adesioni invece di partecipazioni singole, che comunque fanno piacere comunque, anche chi ha deciso di fermarsi solo un minuto oggi va benissimo. E chissà quante multe davvero per mancata lentezza. Ora andiamo però da tutt'altra parte, andiamo a Firenze, dove qualcuno, sentite, si è divertito a danneggiare una statua nella loggia dei Lanzi, in Piazza della Signoria. Non è la prima volta che una statua in Piazza della Signoria viene danneggiata da qualche vandalo. Quello che è successo alla statua di Polidoro, il gruppo scultore del Ratto di Polissena, riporta alla memoria la mano staccata al Biancone 4 anni fa. Il Ratto di Polissena fu realizzata da Pio Fedi nel 1866 e solo ieri è stato notato che un mignolo era stato rotto e l'anulare è danneggiato, probabilmente grazie all'arrampicata di qualche vandalo tra venerdì e sabato notte. Il frammento di marmo che è stato staccato è stato recuperato ed ora la statua dovrà essere nuovamente restaurata. Tutto questo nonostante un servizio di vigilanza notturno della loggia dell'Orcagno e del piazzale degli Uffizi. Ma le statue della loggia dell'Anzi sono già state bersaglio di atti vandalici. Anche il Ratto di Polissena aveva già subito nell'82 la rottura di 3 dita della mano. Ubaldo Cianciulli, GR24, Sole 24 Ore, Firenze. 13:52 minuti, consigli per il pranzo del nostro gastronauta Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Firenze, vi porta in 3 luoghi della città dove non troverete un ristorante, troverete dei carretti. Vi parlo dei carretti del Lampredotto, questo panino al Lampredotto che è un po' una delle glorie fiorentine del cibo. Il Lampredotto non è una trippa come tutti pensano, ma è una parte dell'intestino, l'ultima parte dell'intestino. Bene, dove potete trovare un panino al Lampredotto e altri, diciamo, panini a base di trippe? Nella loggia del Porcellino, in via Gioberti e in via dell'Aretino. Bene, appunto, questi sono i 3 luoghi del Lampredotto a Firenze per un buon pranzo. 13:53 minuti, termina qua questa edizione del GR Extra Large. Alessio Maurizi e Anna Migliorati in studio, il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Peter Bescapè. E come sempre vi ricordo la mail se volete scriverci: extralarge@radio24.it. L'appuntamento altrimenti è per domani con Extra Large, come sempre a partire dalle 13 alle 15, la prossima edizione di GR24. A tutti una buona giornata. GR24, il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.